si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Staremo insieme fino alle 11, la domenica dalle 8.30 sino alle 11. Vi ricordo i nostri contatti, se ci volete cercare su Facebook si può fare Trattino Radio 24, se volete interagire in tempo reale con noi, commentare le prime pagine dei giornali, i fatti della settimana, ci trovate su Twitter, si può fare 24 e Ale Maurizi. E tra poco, dopo il giornale radio però delle 9, soltanto dopo le 9, potete intervenire anche al numero verde 0024 0024 per appunto commentare le prime pagine dei giornali, i fatti della settimana e gli ospiti che più avanti porteremo. Ma cominciamo subito come ogni mattina con una buona notizia. And now the good news. Oh, ma questa volta più che altro si tratta di un personaggio tra l'altro che è stato tirato fuori anche da Report lunedì sera. Lui è un agricoltore siciliano, si chiama Giuseppe Lirosi, lavora a Raddusa. Le sue imprese producono grani autoctoni siciliani che erano stati dimenticati, erano stati abbandonati la produzione di questi grani. Ebbene, lui li produce tutti insieme, tantissime varietà, e si è scoperto che questa cosa resiste bene ai parassiti, quindi non c'è bisogno di pesticidi. Oltretutto le sue farine sono digeribili anche per chi ha problemi di allergie, è una cosa che adesso va anche molto di moda per la maggiore. Quindi complimenti a Giuseppe Lirosi che sta portando avanti questa cosa. Bisognerebbe dargli, non so, il premio Nobel per la chimica, forse no, anzi sicuramente, visto che i suoi sono tutti prodotti super naturali, per la pace forse. Complimenti a Giuseppe Lirosi dalla Sicilia. Ma andiamo sulle prime pagine dei giornali di oggi, vediamo un po' di cosa si parla. Ci sono le anticipazioni sulla manovra, sarà una settimana di emendamenti, di modifiche. Per il momento siamo ancora in mezzo al guado, quindi si parla soltanto di ipotesi. Poi ci sono, insomma, i commenti su Genova, sull'accordo degli autoferrotranvieri di quella città, ma insomma anche un po' di notizie sparse qua e là. Poi c'è l'esordio degli alfaniani a Roma di ieri e anche la reazione di Berlusconi. Ma cominciamo dal Corriere della Sera. Dicevamo notizie economiche, più soldi per i redditi bassi, modifiche al cuneo fiscale fino a 225 euro all'anno, ma solo per chi ne guadagna meno di 32.000, cioè si sta riducendo la platea sotto, insomma, i 32.000 euro, però si alza, diciamo, quello che dovrebbe essere poi il bottino da portare a casa. Parte la trattativa con l'Unione Europea, risorse in cambio di impegni, il sottotitolo, questo è il Corriere. Poi c'è l'inchiesta, sempre del Corriere, di Sergio Rizzo sugli sprechi italiani. Le poltrone all'ACI, 800 poltrone tra sprechi e conti in rosso, record di amministratori per 3.000 dipendenti. L'iscrizione dei veicoli al pubblico registro, leggiamo, automobilistico, è prevista da un decreto del 1927. Questa tassa occulta da circa 200 milioni l'anno rappresenta una formidabile assicurazione sulla vita per un carrozzone chiamato Automobile Club d'Italia, una struttura elefantiaca, 3.000 dipendenti, 106 strutture provinciali e appunto 800 dirigenti che ci costano un bel po'. C'è anche la foto, dura contestazione dei tifosi del Milan, il pareggio con il Genoa e poi l'assedio nella notte, andato che è stato sciolto soltanto dopo la mediazione di due calciatori, Kakà e Abbiati. Succede anche questa, a Genova si protesta per il lavoro, a Milano si protesta per la squadra di calcio. E vabbè, Repubblica, Berlusconi è golpe, voglio la grazia, in piazza il 27 contro la decadenza. Il PD parla invece di un'orgia di affermazioni eversive, magari leggeremo qualche passaggio più avanti. Invece, sempre per quanto riguarda gli emendamenti alla manovra, svolta sui manager pubblici, via con i bilanci in rosso. Magari, speriamo che possa succedere questa cosa qua, il manager pubblico mandato via, ma dovrebbe accadere anche nel privato quando i bilanci sono in rosso. Leggiamo un passaggio dell'intervista del leader della protesta di Genova su Repubblica. che è il segretario Pfizer Andrea Gatto. Abbiamo iniziato come protesta per la nostra azienda, poi è vero, c'è la crisi, c'è la paura per il, che ti incalza, non ti molla mai, e allora con noi in piazza sono arrivati anche molti altri lavoratori. Sia chiaro però una cosa, non avevamo intenzione di cambiare né l'Italia né l'Europa, era solo un'avvertenza sindacale. Adesso che cosa è cambiato? Gli domanda l'intervistatore. C'è un progetto, un'agenzia unica regionale del trasporto e poi forse un'azienda unica. Ci hanno messo la faccia, perché sappiamo che uno dei problemi delle aziende del trasporto è la polverizzazione. Sono troppe, sono troppo piccole, non reggono agli investimenti, bisogna che si uniscano. C'è chi parla anche di privatizzazioni. Il segretario Faisa, leader della protesta di Genova, Andrea Gatto, risponde: noi le abbiamo provate con i francesi di Transdev. Sono arrivati e hanno portato 25 milioni, sono scappati via con quei 25 più altri 14. Basta così. Quindi il problema non è tanto privatizzazioni sì o no, mi pare di capire, ma le privatizzazioni che non vanno a buon fine. Abbiamo pochi secondi, credo, prima della pausa, sì, ma ancora qualcosa possiamo leggere. La stampa, sconti fino a 225 euro, questo l'abbiamo già visto, c'era anche sul Corriere. Sul Sole 24 Ore, oltre ai commenti, insomma, sulla manovra, come va definendosi, c'è un appello, una lettera appello al presidente Letta e il direttore Roberto Napoletano. Il rilancio dell'economia, dice Napoletano: presidente Letta, tiri una linea, azzeri tutto, prenda atto che la sua legge di stabilità non è in grado di cogliere le priorità del paese e di fornire le risposte adeguate. Ha ancora pochissimo tempo a disposizione per porre rimedio, ma può farlo se vuole dare un senso compiuto alla stabilità in linea con il sentimento del paese. Se non lo farà, il guscio di una ingovernabilità fine a se stessa si rivelerà vuoto, segnerà la chiusura della sua esperienza governativa e soprattutto rischierà di aggravare irrimediabilmente il logoramento del tessuto economico e civile di un'Italia stremata e mai davvero ripartita. L'appello forte quindi il direttore del Sole 24 Ore a modificare la legge di stabilità in tempo, perché senza queste modifiche non si va da nessuna parte, la legge rischia di non servire a niente, anzi, dice Napoletano, di far ripiegare su se stessa la politica. Ancora una volta, ancora un breve titolo sul Fatto Quotidiano, sempre a proposito della casta, un capitolo che non si esaurisce mai. Una piccola inchiesta su Patroni Griffi, sottosegretario della presidenza del Consiglio di questo governo. Nel 1986 aveva ottenuto in affitto dall'INPS un appartamento di 5 vani nel cuore di Roma, comprato poi nel 2008 a 117.000 euro e rivenduto incassandone 800.000, un affare da 600.000 euro per il sottosegretario Patroni Griffi. La casa al Colosseo, e sono questi i privilegi che, insomma, magari non solo della casta dei politici, ma di tutti quelli che hanno potuto beneficiare di questo sottobosco, beati loro. Invece per noi ci sono affitti e mutuo. Facciamo una pausa, traffico. Per salvare l'Italia in un minuto si fa così: si mette una patrimoniale per tutti i grandi ricchi, ricconi, possessori dei palazzi e dei terreni, cioè montagne, terre, pianure, e poi bisognerebbe mettere mano a coloro che hanno i denari alla borsa, evasori fiscali, eccetera. In un minuto si salverebbe tutta l'Italia, se potremmo togliere il debito pubblico, poi diventiamo più forte la Germania, più forte di Parigi, più forte di Londra. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Restiamo in edicola e andiamo come ogni domenica a quest'ora a curiosare tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale curato dalle mani sapienti di Armando Massarenti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Armando. Allora, oggi con che cosa ci vuoi ingolosire? Poi dobbiamo parlare anche degli Stati Generali della Cultura, c'è un'iniziativa importantissima, però intanto di cosa ci vuoi parlare oggi, Armando? Ma guarda, almeno due cose forse tra le tante che compongono la domenica di oggi. Uno è Antonia Byatt, che è una grandissima scrittrice inglese di cui anticipiamo l'ultimo romanzo, che racconta di una bambina magra, come la chiama lei, della Seconda Guerra Mondiale, che in pratica impara a leggere voracemente, legge voracemente moltissimi libri e soprattutto ripercorre le mitologie nordiche, e noi ne proponiamo un brano. Il volume è in uscita per Einaudi, il Grana Rock, La caduta degli dei si intitola, ed è proprio la fine degli dei, ed è proprio l'idea di una precognizione di un disastro, cioè quello della Seconda Guerra Mondiale, però visto dalla campagna inglese, con questa bambina che legge e che ci spiega anche, appunto, ci fa vedere che cosa significa la lettura, cioè essere nell'atto di apprendere e di vedere la vita e il mondo attraverso, appunto, la lettura di questi libri meravigliosi che scopre e legge voracemente, e con la guerra incombente, i bombardamenti che non arrivano alla campagna ma che comunque lei sente presente, insomma un pericolo che sente incombente lei e tutta la famiglia. Insomma, l'Antonia Bayat è una grandissima scrittrice di grandissima potenza nella scrittura, nell'immaginazione, molto attenta all'immaginario dei bambini, e con questo romanzo direi che dimostra ancora una volta tutte le sue qualità che poi la rendono una delle maggiori scrittrici inglesi di questo momento. Poi abbiamo sempre in ambito di capacità di grande scrittura, grande incisività dal punto di vista femminile, Alina Marazzi che ci parla della giornata della violenza sulla donna, che sarà domani, e noi l'anticipiamo con una sua riflessione molto bella, molto potente, di come i linguaggi devono cambiare se vogliamo parlare. Prima, un tempo si parlava di uxoricidio, oggi di femminicidio, sono lo stesso concetto, sono due cose diverse, sono le storie che abbiamo visto sempre di più nelle cronache, perché finalmente vengono raccontate, mentre un tempo insomma venivano anche meno raccontate, della violenza, appunto, che spesso in maniera molto nascosta avviene da parte degli uomini verso le donne. La cosa bella e delicata di questo pezzo di Alina Marazzi, l'autrice, sapete, insomma, di film famosi come Un'ora sola ti vorrei, Vogliamo anche le rose, è molto attenta all'immaginario femminile, è proprio, insomma, la capacità di riraccontare storie evitando delle trappole anche visive, che finiscono a volte invece per accentuare il problema più che invece cercare di risolverlo. Quindi è una grande delicatezza in questo. Senti, Armando, andare avanti, sì? Ma credo che sia il momento di parlare del... Sì, perché è stata la settimana, insomma, dove qui proprio noi del Sole 24 Ore, nella sede di Viale Monterosa a Milano, abbiamo ospitato gli Stati Generali della Cultura, l'iniziativa nostra, vostra, Armando, e con una proposta del Presidente del Consiglio Enrico Letta, che riguarda proprio, insomma, la messa in campo delle città italiane per la cultura. Un'idea originale, voi oggi ne parlate ospitando il commento e l'intervento di Fulvio Irace, che tra l'altro è qua con noi, lo saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Armando, presentaci questa iniziativa importante. L'iniziativa è questa, tra le tante cose, diciamo, concrete che sono venute fuori agli Stati Generali, che poi sono, diciamo, il momento clou, è la seconda edizione questa, ma che continua nel nostro impegno del nostro manifesto per la cultura che avevamo lanciato un anno e mezzo fa e che aveva poi avuto una grande ripercussione e anche un'adesione praticamente del nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che l'anno scorso aveva fatto un discorso molto molto bello, molto incisivo su quanto la cultura sia una scelta ancora da fare. Ecco, Enrico Letta sembra aver raccolto questa sfida, è stato intervistato, ha ascoltato, devo dire, con grande attenzione, anche se non era presente ma era in collegamento da Roma, ma con grandissima attenzione le relazioni, in particolare da quella di Elena Cattaneo, la senatrice a vita, che è un altro bel risultato della nostra azione, perché il Presidente Napolitano, nel nominare i senatori a vita, come abbiamo già detto altre volte, ha fatto proprio la scelta della cultura, dell'alta cultura. E insomma, tra le varie cose, parlando di gravi sgravi fiscali, rapporto delle imprese all'interno della cultura e molte altre cose, diciamo che la proposta di Enrico Letta di indire una sorta di concorso nazionale per una capitale italiana della cultura ogni anno, sul modello di quella che c'è ogni 4 anni, capitale economica, capitale culturale europea, proprio all'indomani della selezione che c'è stata, no, delle città che erano 19 sono diventate 6, ha lanciato appunto questa idea. Allora noi abbiamo pensato di farsi subito un bel ragionamento, lo abbiamo fatto con due articoli, anzi tre articoli, che sono, prendono le prime due pagine della domenica di oggi. Uno appunto è quello di Fulvio Gracia, gli altri due sono quelli di Guido Guerzoni e Flavia Foradini, che lei ci fa un esempio di successo, cioè Graz, Guerzoni ci fa un esempio di successi e insuccessi nel mondo di città che hanno puntato sulla cultura, perché noi ci teniamo molto a diciamo a fare quella cosa che ci ha mostrato molto bene Elena Cattaneo, cioè conoscere per deliberare, imparare anche dai fallimenti, cioè dall'esperienza, da esperimenti che sono stati fatti e che magari non hanno funzionato, vedere cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. Ma a Fulvio Gracia, che è la nostra firma principale in campo proprio di architettura, urbanistica, design e tutti i temi che sono necessari appunto per capire che cosa è oggi, che cosa deve essere oggi una parte importantissima di quella industria creativa di cui si è parlato negli Stati Generali, è proprio lui che abbiamo affidato il ragionamento sulle città italiane, perché le città italiane, nell'intuizione appunto di Enrico Letta, devono essere messe, come dire, in competizione tra loro, lo sono già, e appunto in un pezzo molto bello Fulvio ci racconta come la litigiosità classica, insomma, delle nostre città, per cui ogni città è nemica in qualche modo, sì, pure bonariamente, allora, quella vicina, sentiamolo. Alla fine diventa una concorrenza che può diventare molto modernizzatrice e capace appunto di produrre nuove idee culturali. Grazie, lasciamo a lui, esatto, raccontarci. Sì, grazie. Buongiorno ancora, buongiorno a tutti. Mi pare che Armando Massarenti abbia, diciamo, colto con grandissima puntualità e esattezza il cuore del problema. La proposta di Letta è suggestiva, e noi, diciamo, l'abbiamo in un certo senso accolto, ripensato e rilanciato sulla pagina di oggi, perché è una proposta che diciamo tiene conto di una specificità italiana. La cultura in Italia, voglio fare una provocazione, ecco, la cultura in Italia non è mai stata, come dire, una cultura nazionale, ma è stata sempre una cultura legata a un contesto specifico di una città, perché la tradizione italiana è legata al paesaggio delle famose 100 città, e nonostante tutto, diciamo, questa sorta di campanilismo culturale, lo dico in senso positivo, proprio nel senso della biodiversità culturale, è stato a tuttora, diciamo, anche in questi tempi grandissimi di crisi, il motore principale di quello che di buono si fa in Italia. Facevo l'esempio nel mio articolo di tutta la serie numerosissima ormai di manifestazioni, dal Salone del Libro, dalle giornate della lettura di Mantova, ad Altissima di Firenze, dal Salone del Mobile di Milano, iniziative che nascono in un ambito locale e che però hanno, proprio per la loro intensità e concentrazione, un eco internazionale. Un fenomeno infatti che tutti gli osservatori stranieri che vengono invitati anche nelle giornate della letteratura, per esempio quando si invitava a Mantova, rimanevano sorpresi dicendo che era un fenomeno questo che non era possibile riscontrare in nessun'altra regione d'Europa o del mondo, e che quindi implicitamente riconoscevano come un modello italiano. Io purtroppo vi devo chiedere di fermarvi qua, perché abbiamo il giornale radio che incombe tra pochissimi minuti, le notizie e aggiornamenti come è giusto che sia a quest'ora. Voglio ringraziare soprattutto Fulvio Gracia, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E naturalmente anche Armando Massarenti, il direttore responsabile del Domenicale. Noi ci ritroviamo invece, Armando, domenica prossima. Buona domenica a tutti voi. 800 24 00 24, ci risentiamo dopo il giornale radio, più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Tra poco cominceremo anche a sentire i vostri interventi. Potete continuare, come abbiamo fatto anche ieri, a raccontarci che cosa ha reso bella la vostra settimana, ma oggi si vincono i biglietti per la mostra di Munch rispondendo alla domanda sul personaggio della settimana. Vi chiediamo di indovinare il personaggio della settimana. Il primo indizio che diamo è questo qua: è un personaggio che si è messo recentemente a parlare al mondo, è un po' vago, ma naturalmente è giusto che sia così, siamo solo all'inizio. 800 24 00 24, si vincono i biglietti per la mostra di Munch a Palazzo Ducale a Genova dal 6 novembre al 27 aprile del 2014, quindi c'è tempo per andarci fino a quasi metà dell'anno prossimo. Che dire ancora? I nostri contatti, Si può fare 24 su Twitter, siamo anche su Facebook, ci sentiamo tra poco dopo il traffico, a tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, adesso però salutiamo Marco Boschini, il coordinatore dell'Associazione dei Comuni Virtuosi. Buongiorno Marco. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato, l'abbiamo sentito già altre volte, insomma chi ci ascolta lo conosce, Marco Boschini, l'Associazione dei Comuni Virtuosi. Quanti comuni siete radunati adesso nella vostra associazione, Marco? Siamo arrivati quasi 80, siamo 76. Bene, speriamo che siate sempre di più. Insomma, ne fanno 100 e ne pensano 1000 dalla scuola di altra amministrazione. Quando l'avete fatto l'ultima scuola per così far passare le buone pratiche da un comune all'altro, Marco? L'ultima edizione l'abbiamo fatta a Parma l'8 novembre, c'erano 120 persone. Quest'anno in totale abbiamo formato più di 600 tra amministratori, cittadini e funzionari pubblici. Insomma, quando si parla di politica, no, che le cose che non vanno, che non funzionano, bisogna sempre ricordarsi che c'è un altro mondo, un'altra metà della medaglia, della luna, vedetela come volete, di cose che invece funzionano, amministratori che si danno da fare, che riescono, trovano delle soluzioni concrete, se le passano anche tra di loro, si insegnano come fare, come risolvere i problemi concreti dei cittadini. Facciamo alcuni esempi, Marco, il verde pubblico, l'efficienza energetica, quindi il risparmio, la ristrutturazione degli spazi abbandonati, di quante cose vi occupate, quali sono i criteri per entrare nell'Associazione dei Comuni Virtuosi? Ma i criteri sono i temi che poi sono comuni un po' a tutte le realtà, quindi la gestione del territorio, l'impronta ecologica, i rifiuti, la mobilità, i mobili, stili di vita, l'integrazione, tutte cose che sono sulle scrivanie dei sindaci di tutti i comuni italiani. Noi cerchiamo di declinare questi problemi, questi temi, trasformandoli in possibilità, facendo delle cose concrete. L'ultimo progetto molto bello, che potenzialmente è esplosivo per positività, del comune di Montechiarugolo in provincia di Parma, che sta riuscendo a riqualificare completamente la pubblica illuminazione con gli impianti a LED, parliamo di un investimento di 1,5 milioni di euro, senza dover incappare nel patto di stabilità. Sul nostro sito ci sono tutte le informazioni, è un progetto che può essere preso come spunto per tutti i comuni italiani che giustamente si lamentano del fatto che non possono più fare nulla perché non ci sono le risorse. Adesso però ci ha incuriosito, come si fa a fare un investimento così senza incappare nel patto di stabilità? Ci saranno dei sistemi finanziari? No, è una forma contrattuale, che era nelle possibilità già da qualche anno, è prevista dalla normativa, ma che nessuno aveva ancora sperimentato, perché ovviamente nessuno ha mai voglia di fare il primo passo, perché chi lo fa per primo incorre nei rischi e nelle difficoltà di sperimentare una cosa nuova. Loro l'hanno fatto, sono riusciti a costruire questo progetto che sostanzialmente sposta l'onere dell'investimento sul soggetto privato a cui viene affidato l'intervento, a fronte di un risparmio energetico che invece va tutto subito a beneficio della comunità. Avete capito l'astuzia, la furbizia, l'arguzia? Qua non si scherza. Cari amici amministratori, sindaci, assessori di piccole città, perché è più facile a volte impostare queste politiche nelle piccole città, ci sono, insomma, non lo so perché, ma Marco, forse una risposta la puoi dare tu, no? C'è più margine di autonomia, si possono fare magari piccoli investimenti, anche se poi c'è il problema di farli su vasta scala, e quindi proprio semmai di trovare dei risparmi. Per esempio la questione dei trasporti ne è un esempio, però perché siete tutti piccoli comuni al momento? Ma allora, sicuramente è più semplice, diciamo, più immediato e più veloce fare un'iniziativa di questo tipo in un comune di 8.000 abitanti piuttosto che in una metropoli, però è forse anche vero il contrario, nel senso che noi piccoli comuni abbiamo molto molto meno personale, molta meno formazione, quindi abbiamo personale meno formato, abbiamo meno strumenti per intervenire rispetto alle grandi città. Non è un caso che in giro per l'Europa gli esempi virtuosi in campo ambientale, sì, anche e soprattutto sulla mobilità, arrivano dalle grandi città, non dai piccoli comuni. Noi qui facciamo il contrario, forse perché qui si entra in un problema più politico di approccio degli, sì, amministratori che stanno nei grandi centri e che magari vivono quel momento amministrativo come un autobus per andare a fare poi qualcos'altro. E vabbè, adesso non facciamo riferimenti perché ce n'è uno, ce n'è assolutamente uno, no, noi parlavi in generale, ce n'è uno in particolare che sta facendo il sindaco, vabbè. Ma non era un riferimento a lui naturalmente, no, almeno non da parte mia. Manteniamoci alla larga da questi discorsi, certo. Marco, aggiungo una cosa: forse uno dei motivi per cui nei piccoli comuni si riesce è che magari si riesce a motivare meglio anche la squadra del personale, sia in meno, e quindi forse un sindaco, un assessore che spinge in gamba, bravo, riesce a tirarsi dietro tutta la macchina. Forse nelle grandi città motivare è più difficile, ma questo è un altro capitolo che non vorrei aprire adesso, invece, perché vorrei parlare con te della vostra nuova iniziativa, che consiste in una petizione per fare che cosa? Per dire, credo, soprattutto alla RAI: parlate delle cose che facciamo non tanto noi, voi, dell'Associazione Comuni Virtuosi, ma tutti quelli che fanno le cose buone, le buone pratiche, le buone notizie, perché siamo impestati di cattive notizie su cose che non funzionano, voi dite, e non si parla mai di chi le cose le fa, e quindi c'è una motivazione in meno, no? Assolutamente sì, se pensiamo al palinsesto televisivo, alla settimana televisiva dei talk show televisivi e degli appuntamenti che parlano comunque di politica e di società, ci rendiamo conto che hanno tutti un tema, cioè la cattiva politica, gli sprechi, le inefficienze, tutte cose che vanno denunciate. Noi non diciamo che bisogna far finta di nulla, cioè in questo paese ci sono un sacco di cose che non funzionano e che vanno sistemate, ma ce ne sono altrettante che funzionano. Voi siete l'esempio lampante di come si può fare una trasmissione raccontando esperienze positive. Grazie Marco, grazie, questo è il riferimento. Noi ci proviamo. Poi c'è tutto un problema di ascolti, perché naturalmente chi fa questo mestiere deve cercare anche di preoccuparsi di questo, però questo è un altro capitolo. Intanto grazie per la menzione, però finisci, così ci parli proprio della petizione che state portando avanti. Sì, la petizione si può firmare su Change, comunque attraverso il nostro sito comunivirtuosi.org c'è un banner che rimanda la possibilità di firmarla. Il tema è questo, cioè noi chiediamo alle testate giornalistiche in generale, ma in special modo la RAI, che è servizio pubblico, di affiancare alla denuncia delle cose che non funzionano la narrazione delle buone prassi, perché lo abbiamo visto, lo abbiamo sperimentato in questi anni, noi come associazione, ma come dicevi giustamente tu, la miriade di realtà istituzionali e non, che in tutta Italia fanno cose meravigliose, che le buone notizie sono contagiose, cioè invogliano la persona che è davanti alla televisione ad alzarsi e dire: beh, se l'hanno fatto loro, perché no? Perché non posso anch'io contribuire e scoprire che magari nel mio territorio c'è un'associazione, una cooperativa, una realtà che si sta battendo per fare qualcosa di concreto. Guarda, noi abbiamo avuto, scusami se ti interrompo, per dire questo, hai parlato di già un elemento: le buone notizie sono contagiose, le buone pratiche. Noi abbiamo raccontato ieri due storie, una che riguarda un negozio dove tutto è gratis, si chiama Passamano a Bolzano, e adesso apre anche a Caserta, o proprio oggi tra l'altro, e quelli di Caserta che abbiamo sentito ieri ci hanno detto: avevamo sentito un servizio al telegiornale e abbiamo detto perché non farlo anche noi, e questo è un esempio concreto. Poi un'altra storia che è la Social Street di Bologna, ma insomma è vero, è così, è giusto fare la denuncia, è giusto fare le inchieste come fanno molte trasmissioni autorevole, però bisogna a fianco portare anche degli esempi positivi, se no io dico che l'inchiesta stessa è azzoppata, perché altrimenti uno pensa che la realtà sia solo quella, invece si dà più forza alla denuncia mettendo in luce a fianco le cose che funzionano, e questa sarebbe una correttezza, no? Assolutamente sì, io penso ad esempio a una trasmissione come Report, che fino all'anno scorso aveva alla fine dei suoi servizi le Good News, alle quali molto spesso abbiamo partecipato anche noi. Ecco, ci siamo accorti che quel tipo di informazione è un'informazione che poi porta le persone, gli amministratori, i cittadini, gli attivisti a contattarti e a fare come stanno facendo per il discorso del passamano, cioè portare esperienze positive che hanno funzionato in una realtà in un'altra realtà. Bisogna farle conoscere, per farle conoscere cosa, ci vuole un'informazione che dia loro riscontro. Marco, c'è addirittura uno studio che voi citate, al di là dell'effetto contagio delle buone notizie, che ci fa piacere, ma anche un effetto positivo sulla mente delle persone. Ora qui sembra di andare in un campo da santoni indiani, però c'è anche questo, no? No, sì, ma è assolutamente una cosa scientifica e ormai appurata, cioè le persone che sono circondate da positività e da buoni esempi sono persone che stanno anche meglio da un punto di vista psicologico. Il discorso della luce naturale, della luce artificiale, cioè quando c'è una giornata brutta e siamo chiusi in casa, il nostro umore ne è condizionato negativamente. Quando c'è una bella giornata, al di là di quello che è il nostro contesto di vita di quel momento, comunque siamo più propensi ad avere un sorriso. Cioè sembrano banalità, ma sono le cose che poi a volte fanno la differenza. E allora, insomma, se siete rimasti convinti, se vi è piaciuta l'argomentazione dei Marco Boschini, dei Comuni Virtuosi, andate su change.org, sulla loro sito, ma anche sulla nostra pagina Facebook e su Twitter, l'abbiamo rilanciata anche noi, e firmate questa petizione per le good news. Marco, se la vuoi rilanciare in 20 secondi, poi ci salutiamo. Sì, io ricordo che oltre a noi anche Slow Food e il sito buonenotizie.it condivide questa battaglia, e speriamo che quanti più cittadini la possano firmare, perché poi il nostro obiettivo è andare a Roma davanti alla sede della RAI e in modo pacifico dimostrare che c'è un'Italia diversa. Tutti a Roma, Marco, tutti a Roma, che se ci andate non di sabato e domenica veniamo anche noi, perché bene, adesso siamo impegnati qua. Grazie, grazie, buona domenica. Grazie a voi, a presto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Gabardini, buongiorno. Buongiorno a buongiorno, tutti. Buona domenica, ben ritrovato. Grazie mille. Un po' acciaccato. Sono un po' acciaccato, direi che sto un po' peggio di ieri, ma per radio non se ne accorgerà nessuno. Le costole premono, esatto, doloranti, dopo questo piccolo incendio. E soprattutto è la fascia Gibot che mi stringe sempre di più. Perché il dottor Gibot, ma esiste ancora? È quella? Ho una pubblicità, fascia di lana. Pubblicità non ne possiamo fare. Ah no, però va bene. La fascia Mario, volevo dire, esatto, che è un altro tipo di... Vabbè, ma ormai le fasce del dottor Gibot direi che... Hai firmato la petizione per le buone notizie dell'Associazione dei Comuni Virtuosi? Non l'ho ancora firmata, ovviamente, perché mi sono fatto male anche una mano, ma adesso... Bella scusa, esatto. Tu che hai un grande seguito sui social network, questa cosa potresti rilanciarla, perché insomma è nel nostro DNA, mi raccomando. Molto volentieri, la rilancerò molto volentieri, assolutamente. Promesso. Notizie? Notizie! Allora, iniziamo da Bari. A Bari, diciamo, quando il tuo cane fa i propri bisogni sulla strada e il padrone si dimentica di ripulirle, ti becchi una multa di 300 euro. A Bari, come in tante altre città, esattamente. Però a Bari il problema è molto sentito, perché pare che ci siano molti cani e molti padroni sporcaccioni, diciamo. Quindi ogni anno i vigili sanzionano in media 3.000 cittadini. Che cosa succede però? Poi alcuni pagano di questi cittadini, alcuni non pagano, ma moltissimi fanno ricorso. Fanno ricorso a questa... nei confronti di questa multa, e la cosa divertente sono le scuse che questi i baresi, diciamo, mettono nero su bianco su il foglietto del ricorso, ovvero tipo: stava male di intestino e quindi non ce l'ha fatta a trattenersi. Mio cane, ti prego. È colpa del cane, non è colpa mia. Oppure: avevo la sciatica quel giorno, non potevo veramente piegarmi. Ma direi che la scusa migliore è quella di una signora che dice: no, si sono assolutamente sbagliati, il vigile non ha visto bene, quella roba lì era pipì, non era cacca. Non vorrei che, sentendo questa, ci fosse il contagio delle scuse anziché delle buone notizie, e allora e qualcuno ci copiasse, copiasse i baresi, perché non mi sembra un buon inizio, insomma. Allora andiamo nel nord-est, diciamo. Un gruppo di studenti dell'Università di Padova, facenti parte della lista Il Sindacato degli Studenti e dell'Associazione Studenti Universitari, si ritrova anni fa, questo succede tutti i giorni in Ateneo, lamentandosi dei ritardi dei treni. Parliamo di ritardi parli, visto che è anche un po' il tema del momento e della nostra puntata, un argomento popolare purtroppo. Esatto. Sì. E si ritrovano a lamentarsi perché hanno perso esami, hanno perso appuntamenti, hanno perso appelli. A questo punto decidono di fare una campagna sui trasporti. Si mettono insieme negli anni anche con Venezia, gli studenti di Zoe Laboratorio Studentesco dello UAV, e anche con Udine, e decidono insieme di creare una applicazione per i telefonini che si chiama Trenitardo. È una applicazione dove chiunque, diciamo, seleziona la città, seleziona la tratta e il treno e segnala il relativo ritardo, e a questo punto gli restano 75 caratteri, diciamo, quindi la metà di un tweet, per far partire la cosa bella è che i ragazzi dicono che loro non puntano a essere una vetrina di sfoghi, sì, ma in realtà una banca dati che terrà traccia dei ritardi delle ferrovie. Tra l'altro, e è anche una cosa utile. È molto utile, è un punto di incontro per i pendolari. Dico questo perché poi io sono andato su questa app ed è interessante vedere che in realtà ci sono i calcoli. Uno quindi va su territori, sceglie Padova e legge persi dagli studenti che studiano a Padova 5 giorni, 11 ore e 3 minuti, cioè fanno la somma di tutti i ritardi. Poi ovviamente c'è anche... Ma 5 anche... giorni non la stessa persona, cioè complessivamente gli studenti di Padova. No, perché sennò sulla stessa persona sarebbe... Poi ovviamente c'è anche un pezzo di sfogatoio, quindi c'è chi dice facevo prima ad andare a piedi, ogni mattina la stessa merda, dicono almeno cambiate orario, perché ogni mattina sono esattamente 5... ritardi. Esatto, quindi questa cosa mi ricordo anch'io quando facevo Firenze-Bologna quasi tutte le settimane, e c'era un treno che mi pare si chiamasse Freccia del Sud o qualcosa del genere, che faceva sempre 50 minuti di ritardo tutte le mattine, tutti i lunedì, sempre lo stesso, bastava forse spostare l'orario, chissà. Esattamente, ma è la cosa buona, che secondo me più che uno sfogo diventa anche alcune persone che scrivono trovano una sorta di conforto, un po' di mal comune mezzo gaudio, se vogliamo, e per adesso è soprattutto nel nord-est, ma credo che si amplierà questa cosa, perché è una cosa utile. Se c'è qualcosa che unisce questo paese sono i ritardi dei treni. Bella questa. Ne parliamo più avanti, perché sentiremo la storia di un avvocato che è riuscito in una causa incredibile con una compagnia di treni a ottenere dei rimborsi inattesi, e insomma, quindi è una buona notizia per i pendolari che ogni mattina sono alle prese con purtroppo queste difficoltà. Assolutamente. Ecco. Quindi adesso non si twitterà più, perché io di solito ricordo bene una volta su un treno che twittai lamentandomi moltissimo di un ritardo, e mi rispose Trenitalia dicendo guardi che se lei scende a quella stazione poi trova una coincidenza, che questa cosa fu molto utile, solo che ci vuole un servizio che funzioni veramente dove ti vengono dati questi consigli. Chiudo con un'ultima notizia, visto che ci lamentiamo che da noi si fa poca ricerca, ci sono pochi soldi per la ricerca, appunto gli studenti, che cosa studiano invece negli altri paesi, diciamo? Il Centro per gli Studi Teorici della Charles University di Praga e l'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca fanno questo studio, si sono chiesti ma etero e gay esistono davvero delle differenze somatiche? Quindi hanno questo studio ceco ha deciso che ci sono su questa cosa, mi sembra che parta male, questa mi hai rubato la chiusa della notizia è esattamente questo, nel senso che è assolutamente uno studio ceco scritto con la i, questo, perché poi si legge è fatto su 73 persone, ma e veramente hanno... stanno studiando questa cosa qua. Sì, assolutamente. Cioè Lombroso, stiamo tornando a Lombroso. Esattamente. Però, io non sono lombrosiano, ma direi che questo mi sembra veramente uno studio cieco, perché con 73 persone hanno deciso che ci sono dei tratti somatici. È che ci sono queste differenze, secondo loro. Sì, e addirittura al contrario, però. I tratti del viso di uomini omosessuali sono in realtà considerati più convenzionalmente maschili. Però poi hanno preso delle persone per testare questa cosa e non hanno beccato neanche un risultato buono. Quindi non so che studi facciano. Ma che razza di università che ci ha portato questa mattina? Vabbè, abbiamo invece. Vabbè, oggi sei e mezzo, secondo me. Ieri sei meno come notizie. Vuoi anche ricordarlo? Ieri sei meno. Però sempre ieri, secondo me, era meglio di oggi. Invece, passerò al TAR. Adesso, però, mi deve aiutare con gli indizi per il concorso. Sentiamo se ci sono degli ascoltatori che si avvicinano. Il primo indizio che abbiamo dato è che il personaggio della settimana, perché ha fatto qualcosa questa settimana, è successo qualcosa attorno a questo nome. È uno che si è messo a parlare al mondo. Sentiamo Marisa da Imperia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Marisa. Non avevo capito che fosse proprio al mondo, ma che si fosse messo a parlare parecchio, e ho pensato a Renzi. Matteo Renzi. Non, poteva essere, beh, in effetti lui è ampio dire, è diciamo, ampio. No, non è Renzi, parlare al non mondo è, Renzi. È anche generale. Grazie Marisa, in realtà la parola mondo era importante perché sì, è proprio il mondo. Sentiamo invece se Marco da Milano, ma non Marco da Milano il giornalista, Marco che chiama da Milano, magari è anche Marco da Milano il giornalista, ha la risposta giusta. Buongiorno Marco. Buongiorno, magari da Milano. Nel piacere. Senso che chiami da Parma? No, no, chiamo da Milano, ma non scrivo come da Milano. Purtroppo. Possiamo andare avanti con questo gioco? Secondo me anche un'ora con questo da Milano. No, basta. Rischiando il suicidio degli ascoltatori, però sì. Prego, Marco. Secondo me è Mark Zuckerberg di Facebook. Perché? Perché aveva fatto un'intervista in cui diceva che internet avrebbe salvato il mondo, cioè la connessione sì, di tutte le persone. È vero Marco, questa non è male. Non è la risposta esatta, non è la risposta che esatta. Che in risposta a Bill perché, Gates che disse sì, che internet non avrebbe salvato però il mondo. Però mi è piaciuto lo spirito perché in effetti la parola mondo c'entrava. Lui aveva, però era più vecchia di questa settimana. Invece noi cerchiamo un personaggio di questa settimana. Gabardini, aggiungiamo indizi. Aggiungiamo un indizio e allora io dico che nel suo lavoro usa la penna. Ai ai ai, questo è un indizio forte, eh? Ci siamo sbilanciati. Esatto. Va bene, parla al mondo e usa la penna. Fra poco altri ascoltatori, direi. Assolutamente no? Sì, anzi, io adesso mando un messaggino a mia mamma, spero che chiami lei. 800 24 00 24. Visto che abbiamo fatto la petizione per le buone notizie sui media, così ci invitano a fare slow food, ma anche l'associazione dei comuni virtuosi, il sito buonenotizie.it, noi ci aggreghiamo, anche se non siamo promotori di questa petizione. Questa è proprio la classica buona notizia, l'abbiamo letta l'altro giorno sul giornale, poi gli ascoltatori ci hanno pure scritto, anzi un'ascoltatrice in particolare, parlate di questa bella storia da Busto Arsizio, una libreria. Le librerie sono sempre al centro, un po' sul crinale in questi anni, perché molte chiudono, hanno difficoltà economiche, però poi c'è sempre la passione per il libro, sappiamo, i bambini per esempio leggono tantissimo, quindi ci diciamo ma perché devono chiudere le librerie, è un peccato. E abbiamo scoperto una libreria che riapre grazie al sostegno dei suoi lettori. Adesso cercheremo di capire come e perché. Bella questa storia. Molto bella. Tu pure andai in libreria ogni tanto o vai solo su Twitter? No, è come, assolutamente. Certo. Vado in libreria a guardare le figure, ovviamente, a guardare le copertine, non è che faccio dell'altro. Abbiamo convocato Francesca Boragno, titolare della libreria Boragno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Titolare fino a un po' di tempo fa, adesso co-titolare, come dire, perché esatto, non siete più da soli. Voi siete stati titolari di una storica libreria di Busto Arsizio. Nata quando? Nata con mio nonno nel 1911. Pensate. Quindi riconosciuta dalla Regione Lombardia come negozio storico, è composta da una libreria giuridica, una cartoleria e un negozio penne, che era la passione di mio nonno. Un negozio storico, immagino già, io non ci sono stato, ma insomma sì, anche una la bellezza. Corte seicentesca al centro della città. Le foto infatti lo mostravano, quindi esatto, un posto anche piacevole dove andare, perché c'è anche questo, no? Uno sì, va nei negozi e gode, ha fatto molto, anche ha fatto se molto, non compra nulla, fa un giro. Esatto. Poi voi dite, ma comprate qualcosa, perché se non comprate mai nulla noi chiudiamo. E infatti purtroppo è quello che stava per succedere, perché voi qualche mese fa avete dovuto annunciare una chiusura momentanea. Sì, così, una sospensione. Come mai? Beh, indubbiamente dal 2008 la crisi economica si è fatta sentire. E per quanto riguarda il comparto dei libri, direi che è una lotta che è iniziata forse qualche anno prima. Indubbiamente è tanta la produzione, noi non abbiamo una libreria enorme, sono 100 metri quadri di libreria, e nonostante appunto i nostri forti lettori, la nostra azienda nel suo complesso ne ha risentito. Però per quanto riguarda il ramo libri, la nostra cartolibreria centrale Boragno è riuscita ad aggiudicare la vendita alla cordata di appassionati lettori e frequentatori della nostra libreria. Sì. E questa gente del libro, come vorrei chiamarla, ha acquisito quote della società nuova che si chiama bustolibri.com, e in questo nome c'è già tutto quello che serve per capire l'iniziativa. Busto, perché siamo di Busto Arsizio, Libri, perché abbiamo a che fare con i libri, e Com, che non sta solo per commercio ma per comune, quindi cosa comune, quote comuni tutte uguali a 5.000 euro. E quindi attraverso questa cordata, che prima erano sostenitori, adesso sì, è proprio una vera azienda, diciamo che la nostra libreria storica ha potuto riaprire. Io, come tutti gli altri sostenitori, posseggo una quota, perché credo che anche l'eguaglianza sia stata il successo della nostra iniziativa. Cavolo, ma sono tutte quote da 5.000, cioè ogni persona ha una quota da 5.000 euro? Sì, esatto. Non è poco 5.000 euro. Pensavo, no, non è poco. Infatti il miracolo credo consista proprio in questo sforzo, che di questi tempi non è un azionariato popolare con una quota piccola, è lo stesso principio, però in effetti come dire, si è fatto un investimento su qualcosa cui a molte persone, insomma, la nostra città conta 80.000 abitanti, l'acquisizione completa sono 56 quote, quindi insomma non è poco. Non ma è quindi poco. Quante quote, scusi? Siamo a quota, in questo momento siamo a quota 32 soci. 32 soci. Beh, 32 soci, 5.000 euro, ma a Busto Arsizio, quanti abitanti fa Busto Arsizio? 80.000 circa. È abbastanza grande, però insomma siete riusciti a davvero... Sì, ma io credo che questo progetto, che è stato direi avveniristico e romantico, ma non impossibile, possa essere, come dire, forse seguito, perché le difficoltà sono comuni, purtroppo spariscono negozi storici che caratterizzano ogni città italiana, e questo forse potrebbe anche essere un modo, un esempio almeno per ripartire, perché poi molte persone che sono entrate da quando abbiamo riaperto, ho potuto proprio rendermi conto che mancano dei luoghi di atmosfere, e la libreria lo è senz'altro, ma credo che possa esserlo anche una drogheria, un negozio di cappelli. Beh, insomma, bisogna sicuramente molto occuparsi dell'atmosfera, perché mi sembra, anzi glielo chiedo, uno dei veri motivi della crisi dei libri è che i libri ormai si comprano online. Perché molte volte in libreria uno li deve comunque prenotare, ci vogliono due giorni, allora io lo prenoto io su internet e il libro mi arriva a casa, giusto? Sì, senz'altro il libro in internet diciamo è più comodo, molte volte anche più sconto, e ovviamente chi lo distribuisce non ha spese di tipo appunto affitto, diciamo. Gli sconti non ci sono più molto sui siti, perché li avete bloccati, giusto? Sì, in qualche modo, senz'altro l'Associazione Librai Italiani, insomma, c'è un'attenzione a che non si compiano cose diciamo scorrette. Indubbiamente la virtualità è nel futuro, quindi credo che come dire, non si possa impedire la modernità. Indubbiamente io penso che prima di tutto ci debba essere la voglia di leggere, è questa che bisogna far crescere, perché poi sì, i modi possono essere mille, e non dobbiamo demonizzare neanche internet o le vendite online, ovviamente. Certo, sono mondi paralleli, e noi vogliamo che vadano avanti tutti e due. Francesca, sì, se vuole restare ancora un minuto con noi, dobbiamo fare il traffico, le informazioni sul traffico. Prego, però poi vogliamo fare ancora una domandina a Francesca Boragno della libreria di Busto Arsizio. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, anzi intanto diamo il numero verde 800 24 00 24, tra poco risentiamo gli ascoltatori e rilanciamo gli indizi, che sono il personaggio che stiamo cercando. Il personaggio di questa settimana è un personaggio che si è messo recentemente a parlare al mondo e che nel suo lavoro usa la penna, e tra poco sentiamo se ci siete arrivati. Si vincono i biglietti per la mostra di Munch a Genova. Con Francesca Boragno della libreria di Busto Arsizio vi stiamo raccontando questa storia storia, 32 quote da 5.000 euro ciascuno per rilevare una storica libreria del centro di Busto Arsizio che stava purtroppo chiudendo. Vorrei che ci raccontasse, Francesca, qualcosa di queste 32 persone, cioè un ritratto, una media statistica, che persone sono, perché io credo che, non so, a muoverli sarà anche la possibilità di fare un minimo investimento economico, perché è un'attività che si spera che poi continui a produrre anche un'attività commerciale, quindi degli utili. Però ci saranno persone che forse hanno anche, come dire, deciso di investire questa piccola quota della loro ricchezza personale per avere così ancora il diritto e il gusto a godersi questo spazio bello nel centro di Busto Arsizio, cioè come se uno si comprasse una multiproprietà in vacanza a Cortina, invece loro vogliono averci la libreria Busto Arsizio. Chi sono questi 32, Francesca? Sì, esatto, direi che quello che lei ha detto corrisponde al vero. Queste 32 persone sono gente del libro, come dico io, vale a dire gente che frequentava la libreria, che lettori, autori, editori, direi tutta la filiera è rappresentata, e nelle persone ci sono dallo studente alla casalinga, al pensionato, al professionista, all'avvocato, veramente l'espressione è di tutti i lettori, e hanno fatto un po' il ragionamento che diceva lei, cioè io potrei acquistare un quadro mentre invece quest'anno, oppure ho rinunciato a una vacanza perché mi piace poter sapere che venendo in centro a Busto Arsizio io trovo il mio luogo del cuore aperto, e mi faceva troppo male vedere questo portone chiuso e questa saracinesca abbassata. Bello, con questa immagine molto bella. Io voglio salutare Francesca, grazie per essere stata con noi. Grazie a tutti voi. In bocca al lupo a Busto Arsizio, grazie. E a presto, spero, grazie. Ci risentiremo senz'altro. Volevo fare un bilancio, magari tra qualche mese vediamo come sta andando questa esperienza. Grazie dell'invito, grazie. Grazie. Arrivederci. Allora, adesso facciamo un po' di ascoltatori. Sentiamo Danilo che ci chiama da Pescara. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei voleva chiamare per il personaggio della settimana? Sì, sì. Mi era venuto spontaneo e immediato pensare a Papa Francesco. Perché? Perché forse con l'utilizzo dei social, certo ho pensato prima del primo indizio, però perché la penna ha fatto pensare diversamente, però con l'utilizzo dei social forse si rivolge a un lui in effetti parla al mondo, è vero. Usa anche la penna, ci stava per il momento, usa anche la penna, ci stava, scrive le encicliche, anche se la penna a questo punto ha un doppio significato, possiamo aggiungere anche, esatto, questo, cari ascoltatori, quindi non solo per scrivere ma penna anche in un altro senso per fare un'altra cosa, e quindi non è, grazie Danilo da Pescara per aver chiamato, non è Papa Francesco, e poi deve essere un personaggio che ha fatto qualcosa questa settimana. Vogliamo aggiungere? Beh, Papa ne ha fatta anche questa settimana, direi. Sì, sì, sì. Beh, la misericordina, no, è settimana scorsa. È vero, c'era la misericordina, forse la settimana scorsa. Settimana. No, e invece vogliamo aggiungere un aspettiamo, facciamo un'altra chiamata, diamo la possibilità a un altro ascoltatore, e poi aggiungiamo semmai ancora un altro indizio. Sentiamo Bianca che ci chiama da Lecco. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. No, io non volevo giocare, io bene, vi ascolto sempre, non ho mai osato chiamarvi, ma stamattina quando ho sentito quel signore che parlava delle notizie positive, sì, da comunicare, è un'idea fissa che ho, sarebbe bello nell'arco della giornata, della settimana, avere un telegiornale di notizie positive. L'aggettivo contagioso lo trovo veramente efficace. E invece non succede mai, una cosa semplicissima da fare. Poi si dice, Alessio è una cosa che fa da tanto tempo con questo programma. Grazie. Si può fare, no, è vero, non è, sono stagista e non è che lo dico per farmi riconfermare anche a Bianca, dicembre. Lei sarebbe un'ascoltatrice, perché poi si dice che queste cose non fanno ascolti, no? Che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, questa è, questo cioè, è un luogo comune, però sì, è anche vero, c'è scritto che... anche nella petizione, però lei invece va incontro tendenza, dice no, io le voglio sentire, se le fate io le ascolto. Brava, esatto, Bianca, esatto. Noi abbiamo bisogno anche di sapere che ci sono ascoltatori interessati, verissimo, e pubblico, verissimo, perché se no sembra di parlare a vuoto, anche se non è così, e Bianca ce lo conferma. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, buongiorno. Giacomo ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Ieri sentivo che si parlava un po' di Expo, Giacomo Biraghi, che twittava, ieri, perché tu lo conosci, tra l'altro ci siamo Gabardini. Visti, sì, ci siamo visti una volta parecchio tempo fa, giusto? Mi ricordo. Esatto. In una cascina a Milano. Esattamente. Perché... No, sì, parecchio esagero. A parte non questo neanche déjà vu personale che insomma ci interessa fino a un certo punto, Gabardini mette sempre i suoi affari in mezzo, una cosa così, e non ci possiamo far niente. No, ieri noi parlavamo dell'Expo perché un ascoltatore ha chiamato criticando la via d'acqua più grossa che costerà 80 milioni di euro. Allora, e sarà profonda 40 Draghi centimetri, ha così ci ha detto. E noi abbiamo letto sul suo profilo che lavora anche per Expo. Cosa ci voleva dire, Giacomo? Sì, volevo solo raccontare un punto di vista un po' più expo-ottimista, che sì, mi sembra che sia corretto anche in linea con la trasmissione. Sì, assolutamente. In particolare, ecco, sul canale si è fatta una scelta che è quella di mettere molta acqua e molti canali scenografici all'interno del sito espositivo, questo per rendere un po' più sostenibile. Sì. È anche accettabile per il caldo estivo nei mesi in cui si svolgerà l'evento. E quindi c'era il problema di portarci l'acqua lì. Esatto, esatto. Allora, e anche le zanzare portano però, no? C'è l'autostrada per le zanzare. No, i canali scenografici d'estate perché fa caldo a me mi terrorizzano, posso dire? Lo so, però vedrete che diciamo questo grande lago, ad esempio, che sarà nel centro del sito, sì, sarà molto molto particolare, con dei giochi d'acqua, eccetera. Allora c'era semplicemente bisogno di portare l'acqua dal Villoresi, che è un canale sopra il sito espositivo, e poi di portare via quest'acqua usando la discesa naturale che da nord a sud a Milano c'è, e portarla poi nel Naviglio Grande. Giacomo, quindi dobbiamo fermarci perché c'è il giornale radio, però siccome forse non è finito l'intervento, è giusto il diritto di replica, se vuoi resta con noi, ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. A tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Oh, allora, ieri aveva chiamato un ascoltatore che lamentava il fatto che si spendono 80 milioni di euro per fare un canale dalle parti di Trenno, un canale legato ad Expo 2015, per portare l'acqua proprio nei padiglioni dell'Expo, come ci stava spiegando adesso Giacomo, che è Giacomo Biraghi, che ci aveva twittato ieri a manetta a su manetta, questa cosa qua, mostrando di saperne e voleva replicare. Allora io riporto quello che ci hanno poi scritto sulla mail gli ascoltatori. C'è il parere della sovrintendenza che dice che insomma questo canale è stato pensato male, andrebbe modificato il tracciato perché insomma non rispetta alcuni aspetti paesaggistici, cioè siamo in una zona che è già una zona paesaggistica, ci sono già una serie di vincoli e quindi questo canale non andrebbe bene, e questa è un po' la critica che viene fatta. E invece Giacomo ci stava spiegando che cosa, che invece bisogna farlo, è giusto, perché Giacomo? Eccoci, mi sentite? Ecco. Sì, sì. A lei la parola sul canale. Io non sento niente di là, ma non è un problema. Sì. Io adesso non voglio entrare nel dettaglio, sì, di come il canale è fatto, perché non lavoro direttamente per Expo e sì, sono semplicemente un blogger, diciamo, Expo ottimista. Però cerco di portare alcuni argomenti che danno una visione delle buone notizie. Quindi poi il tracciato certamente dovrà essere migliorato probabilmente, ma non ho il dettaglio operativo. So che è funzionale a un bel evento che porterà i visitatori a divertirsi e a imparare in questo sito. Tra l'altro io sono anche per l'ascensore che è stato proposto sul Duomo di Milano per portare i visitatori nei sei mesi. Adesso così ci vira su un'altra, ci stai entrando a gamba tesa su un'altra polemica. Toccherà che ci sentiamo un'altra volta. Canzonato, secondo me la città di Milano ha bisogno, sì, anche di Expo per un po' sprovincializzare. Va bene, grazie Giacomo. Nel 1906, no, basta Giacomo, forse non ci sente, ma noi dobbiamo chiuderla qua perché non possiamo parlare tutta la mattina di Milano e dei problemi solo di Milano e di Expo. Grazie. 800 24 00 24 con gli ascoltatori. Vi ricordo che stiamo cercando un personaggio della settimana che ha deciso di parlare al mondo e che nel farlo usa la penna non solo per scrivere ma anche per fare un'altra cosa. Sì signori, eccolo qua. Allora tra poco con gli ascoltatori vediamo se ci sono arrivati. Negativi di un'estate. We'll be right back. una settimana stressante a Genova, in particolare per chi doveva usare i mezzi pubblici, perché ci sono stati 5 giorni di sciopero. Adesso anche c'è... per i lavoratori che erano in piazza. Bravo, giusto ricordarlo. Adesso c'è un accordo, vedremo come va a finire, però il tema, insomma, dello stress, per esempio per i pendolari, per chi usa i mezzi pubblici, è sempre il primo piano, perché sappiamo che queste aziende, ha detto il sottosegretario dei trasporti, su 1100 rotte che ce ne sono, il 40% sono tecnicamente fallite. Quindi è un problema che dovremo affrontare, cercare di capire che cosa c'è che non va in queste benedette aziende dei trasporti pubblici. È il fatto che sono pubbliche, è il fatto che sono gestite male, è il fatto che ci sono degli sprechi, è il fatto che si guadagna troppo, troppo poco, si lavora poco, troppo poco. Io non credo che un autoferrotranviere sia da considerare un privilegiato, insomma. Direi proprio di no. Poi, in nessun caso. No, perché insomma è un lavoro anche impegnativo, hanno il loro stipendio, come è giusto che sia. Se poi queste aziende sono state gestite male è un altro problema. Noi vogliamo cercare di capirci qualcosa di più e abbiamo convocato una persona che dovrebbe aiutarci in questo. È l'amministratore delegato di Arriva Italia, un'azienda che opera in Italia in questo settore, quasi tutte aziende in regola coi bilanci, anzi in attivo, la terza azienda forse sul settore. Marco Piuri, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Che insomma, allo stato dell'arte sicuramente è un'azienda sana, virtuosa. Tra l'altro diciamo subito, è un'azienda tedesca. Sì, noi siamo di proprietà di Deutsche Bahn, quindi dell'azienda di Stato delle Ferrovie Tedesche. Certo. Quindi proprietà di un'azienda pubblica tedesca, però sappiamo che in Germania probabilmente le aziende pubbliche si gestiscono con criteri, ora non voglio generalizzare perché con soldi più è banale, con criterio, direi. Diversi da quelli italiani, almeno visti i risultati. Che effetto le fa? Adesso parleremo di come voi in questi anni siete riusciti a operare e anche dove. Bergamo, Brescia, Trieste, Torino sono tante le città dove siete presenti, anche in Liguria tra l'altro. Che effetto le fa però la vicenda di Genova? Perché secondo lei si è arrivati a questo? Ma guardi, sinceramente non è una sorpresa. Ora, ovviamente non sto parlando del modo col quale questa vicenda si sta manifestando, perché è chiaro che c'è disagio per tutti, ci sono anche situazioni di tensione eccetera, ma la sostanza del problema francamente per gli addetti al settore non è una sorpresa. E ci si arriva perché, direi, la crisi che dal 2008-2009 riguarda il nostro paese, così come tutta l'Eurozona, ha sostanzialmente tolto il velo, voglio dire, la coperta, si è capito che è troppo corta, perché in realtà la crisi di questo settore, il problema di queste aziende, è una crisi che viene da molto più lontano e che questi ultimi 4-5 anni hanno evidenziato. La minor disponibilità di risorse pubbliche ha fatto emergere il problema di dove i servizi vengono fatti con la qualità adeguata e usando al meglio le risorse disponibili. Quindi è chiaro che poi lì c'è un dato specifico su Genova nel quale non mi permetto di... Cioè io traduco quello che... perché giustamente lei non vuole neanche sbilanciarsi troppo, cioè quello che ho capito, in questi anni queste aziende sono state ripianificate, riportate continuamente in pareggio con iniezioni di soldi pubblici, dove però c'erano sprechi, basta guardare quello che è successo a Roma con questo scandalo, per esempio all'ATAC. Adesso però che si sta stringendo la cinghia, perché il patto di stabilità eccetera eccetera non lo consente più, tutti i nodi della mala gestione vengono al pettine. Però questa considerazione, che credo sia abbastanza incontestabile, dovrebbe spingere forse verso una gestione diversa, forse addirittura la privatizzazione. Ne parlano molti, lei ovviamente sarà favorevole perché questo è quello che voi fate, perché gestite anche coi comuni ma attraverso la vostra azienda in maniera privata, quindi aziende del trasporto locale. Però aggiungo io, questo è il mio punto di vista, possono essere anche aziende pubbliche gestite diversamente da quello che è stato fatto fino adesso. Adesso però ci fermiamo per il traffico, Piuri, ho fatto una lunga premessa e poi ci racconterà. Poi è perfetto, direi, parliamo di trasporti. Mi sembra molto giusto. Traffico. E insomma, ci svelerà qual è il vostro segreto. Arriva Italia, è vero che siete la terza azienda in Italia per fatturato? Sì, come produzione, come fatturato, nel momento in cui consideriamo il settore gomma, ovviamente escluso il gruppo Ferrovie dello Stato. E siete presenti in quali città? Siamo in dieci società, siamo Torino, Imperia, Como, Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Trieste e Udine. Così gli ascoltatori di queste città si riconoscono e possono anche chiamare per commentare quello che poi sentiranno, visto che i mezzi pubblici li usano più o meno tutti. Traffico, a tra un attimo. Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Con Marco Piuri, amministratore delegato di Arriva Italia, un'azienda che gestisce una decina di società dei trasporti su gomma per il trasporto locale in Italia, per commentare insomma le notizie di questa settimana. Genova come così messa a fuoco del problema, un problema più vasto che riguarda il settore in generale, ci stava spiegando come fate voi, come riuscite. Intanto ci conferma, le vostre aziende hanno i conti in regola, tutte più o meno? Sì, tutte. Sì, tutte 10 hanno bilanci assolutamente positivi, in ordine, in regola, certo. Complimenti, di questi tempi complimenti. Sì, già questo dice medaglia, stelletta. Come fate? Ma guardi, non è che siamo particolarmente eroici e neanche dei Superman. È evidente, vedete, che come allora quando c'è un problema, in particolare un problema rilevante come quello che voi state evidenziando oggi, non è mai colpa di uno, c'è un concorso di colpo, ci sono responsabilità diverse, che non vuol dire che non si possano identificare queste responsabilità, ma evidentemente c'è un insieme di elementi, così come quando le cose vanno bene non è mai merito di uno. Allora è chiaro che in un settore come questo, intanto questo è un settore regolato, quindi per definizione richiede risorse pubbliche, non solo in Italia, in tutto il mondo, perché il servizio di trasporto pubblico è un servizio universale, è un servizio che deve essere garantito anche nel momento in cui non ci sono di per sé le condizioni di economicità, per cui c'è sempre immissione di risorse pubbliche. Il problema è come si bilanciano queste risorse pubbliche con i ricavi da biglietto, e il problema è quanto si riesce a far costare il servizio che si produce. Il problema che sta emergendo è questo, che molte aziende hanno un costo per unità di prodotto che da noi si misura in bus chilometri, cioè il numero di autobus che un'azienda ha per il numero di chilometri che fa, che evidentemente è troppo alto rispetto al sistema dei ricavi che può essere generato. Poi c'è da dire molto anche sui ricavi. Quindi diciamo anche qua, traducendo, non riescono a fare economie di scala. Guardi, le economie di scala in questo settore tendenzialmente non esistono, perché questa è un'altra delle cose che si dicono, fa parte del dibattito. E allora se non è questo il punto, qual è il punto? Perché il hanno punto questo che bisogna ottimizzare, il punto è che bisogna cercare di ottimizzare l'uso delle risorse su dimensioni che non sono quelle grandi. Oggi il dibattito dice che più si fanno le aziende grandi più si risparmia, è una stupidata, dal punto di vista industriale è una solenne stupidata. La dimensione ottimale per ottimizzare le risorse, che vuol dire i mezzi e le persone che devono guidare questi mezzi, è di 8-10 milioni di bus chilometro come bacino, quindi una provincia italiana, non è che bisogna fare grandissime aziende. Nel ferro addirittura sono 4-6 milioni, quindi la Lombardia potrebbe essere divisa in 5-6 bacini, tanto per capirci. Ovviamente incrociando questa gestione, diciamo, delle risorse con le esigenze del territorio e la domanda del territorio. Uno dei problemi che ci sono è questo, che negli anni si è costruito un sistema di trasporti che in realtà non risponde esattamente alla domanda, molto spesso è ridondante, molto spesso ci sono servizi che non servono, che non andrebbero fatti nel modo in cui vengono fatti, e questo è uno dei problemi. Il secondo problema è che faccia qualche esempio però di questo tipo. No, guardi, sono piene le regioni, cioè noi siamo qui ancora. Quando è stata fatta la riforma del settore, uno dei presupposti era che le regioni, gli enti locali, dovessero riprogrammare la rete dei servizi identificando i servizi minimi, cioè vuol dire è un servizio pubblico, è un servizio che deve essere garantito. Io dico, sulla base delle risorse che ho, quali sono i servizi minimi che intendo garantire in termini sociali. Sa cosa hanno fatto tutti? Tutti hanno preso i servizi storici, che erano il risultato di una certa dinamica, e hanno aggiunto servizi. Quindi le aziende offrono troppi servizi, secondo lei? Bisognerebbe tagliare alcune corse sostanzialmente? C'è un sistema che nell'insieme è ridondante, è riequilibrato. Tutto il dibattito sui costi standard serve per dire questo, cioè si fanno meno servizi dove servono, si fanno più servizi dove non servono, si danno più risorse pubbliche dove probabilmente non andrebbero date, e quindi il sistema va oggettivamente riequilibrato. Ci vuole un parametro di riferimento che permetta di riequilibrare. Vede, se lei va a prendere Genova, va a prendere altre aziende urbane, se lei prende il costo per unità di chilometro così a un numero, ora si va da 4 euro a 6 euro e mezzo. Quindi cosa costa produrre un bus chilometro. Ora capisce bene che è una differenza che non si spiega solo con le caratteristiche della città, che non si spiega solo con alcune scelte che possono riguardare situazioni specifiche. Evidentemente lì c'è da lavorare, nel costo di proprietà di prodotto c'è dentro tutto, non solo ovviamente il costo, diciamo, del lavoro, c'è dentro tutto, ma questo è uno dei temi. Dopodiché ci sono le risorse pubbliche che vengono pagate tendenzialmente non in maniera bilanciata ed equilibrata rispetto al costo di produzione del servizio. Quindi viene fuori il pateracchio, cioè lei ha aziende molto efficienti che ricevono molti pochi soldi pubblici, quindi hanno bilanci che fanno fatica a essere a posto, e aziende che ricevono una montagna di risorse pubbliche e hanno bilanci in perdita. Comunque, bisogna agire sulle due parti. Mi sembra di capire che, insomma, al di là poi di come ognuno la pensi, poi non è che volevamo fare uno spot alla Riva Italia, volevamo semplicemente capire come dal vostro punto di vista si fanno a gestire delle aziende del trasporto locale senza arrivare ai disastri che abbiamo visto non soltanto a Genova, ma insomma anche il caso di Roma è clamoroso, anche se lì probabilmente è stata anche una truffa e della corruzione. Quindi abbiamo messo un po' i piedi in questa vicenda, non è facile capirlo. No. A me piace soprattutto l'idea che dice Piuri, cioè si può lavorare privatizzando, lavorando con il pubblico sì, può avere anche la maggioranza in certi casi. Se posso, scusi, ecco appunto, cioè francamente il dibattito non è privatizzazione. Il tema vero, che in Italia si è fatto molto poco, sì, è di liberalizzare, cioè di fare in modo che chi fa i servizi non goda di una rendita di posizione eterna, per cui nessuno da lì lo muove, ma che si facciano gare. Al termine della gara il gestore, se è stato bravo, può rivincere la gara se è riconfermato, altrimenti può perderla. Se lei innesca questo meccanismo, che non è un problema di, come diceva giustamente lei, chi è il socio pubblico o privato, il problema è: io non sono garantito per l'eterno che farò questo servizio. Purtroppo questo è il problema, unito a un'altra questione, che quando in Italia si dice realizziamo e facciamo le gare, lei ha un piccolo problema, che l'arbitro fa il giocatore, cioè il soggetto che mette a gara i servizi di un'azienda è anche azionista di quell'azienda. Secondo lei quella gara lì chi la vince? Va bene, Piuri, questo ci porta ancora da un'altra parte, però. Quello che volevo concludere è questo, cioè quando si dice privatizzare si può dire anche, e voi ne siete la dimostrazione, che si può invece far collaborare il socio industriale, come siete voi, con il socio pubblico, che è il comune che decide di fare quel servizio. Il comune può essere anche in maggioranza, voi ci state lo stesso, però la gestione poi può essere virtuosa, ed è questo quello che conta. Io ringrazio Marco Piuri, si potrebbe grazie andare avanti per ore, ma non è il caso, amministratore delegato di Arriva Italia. Intanto però una buona notizia, questa sì, per i pendolari, l'abbiamo trovata e viene da Bergamo. Fantozzi ragioni Rugo, matricola 1001 Barabis dell'ufficio sinistri. Lei venghi qua. Sì, signor mega direttore. No, va di là. E si muovi. Ah, hanno messo la parete a vetri. Sveglia e caffè, barba e bidet. Presto che perdo il tram. Vabbè, questo è Fantozzi che perde il tram, il meraviglioso per chi se lo ricorda. La notizia è questa, che c'è un avvocato che è riuscito a far risarcire i suoi clienti, una ventina credo di persone, per non solo i ritardi ma anche i disagi e lo stress subito dai pendolari in giorni e giorni di ritardi, di riscaldamento che non funziona, di aria condizionata che non funziona, di carrozze sovraffollate. Questo eroe Pierluigi Piromalli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Un eroe moderno dei nostri tempi, perché in effetti non è facile vincere le cause di questo tipo, non è una class action, è una causa. Quanti sono i suoi clienti, Piromalli? Allora, i miei clienti sono 21. La ringrazio innanzitutto per l'attestato di stima. Di benevolenza, vabbè, questo, di stima eterna, perché chiunque ha fatto per un po' il pendolare sa davvero quali sono. E tutti, tra l'altro, sognano esattamente di essere risarciti, sì, non semplicemente del biglietto, ma del fatto che hanno avuto dei disagi pazzeschi che non sanno nemmeno come spiegare. Allora, il suo, come si chiama? La sua controparte era Trenord. Trenitalia. Trenitalia era il gestore del servizio. Quando noi abbiamo promosso l'azione nei confronti dell'ente, Trenitalia gestiva la tratta ferroviaria Bergamo-Milano. E adesso non la gestisce più? Adesso è Trenord, okay. È succeduto Trenord come ente. Sì, ci racconti?

Sì. E il personaggio è Malala, questa giovane di 16 anni che è stata premiata per, a Strasburgo. Per? Dunque, prima di tutto era stata nominata per il premio per la pace, Nobel per la pace, che ha perso per pochi voti. E poi sì, è vero che era stato detto che sì. Mi spiace deluderla, ma la risposta non è corretta. Esatta. È vero che lei ha vinto il premio Sakharov e quindi poteva starci. Poteva assolutamente starci. No, non dicevo questo. Però non è questa la risposta. Siamo andati su un genere, diciamo, più leggero. Sì, ma leggero mi sembra proprio la risposta giusta. È quasi un indizio. Rispondo anche a chi ha Massimo da Roma, che manda un SMS e quindi aiuto tutti e propone come personaggio Stephen King, e gli dico che non è giusto. Vogliamo aggiungere anche un altro indizio? Ma sì, aggiungiamo un altro indizio. Lo dai tu? Vai. Do l'indizio. Diciamo che è Emiliano. È un bel indizio. Emiliano Romagnolo, il personaggio. Paolo da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei su cosa voleva intervenire invece, Paolo? Buongiorno. Sul discorso appunto del deficit dei mezzi pubblici. Sì, sì. Ma io ho girato parecchio l'Europa, gli Stati Uniti, l'Australia, ma dappertutto c'è un bigliettaio. Oppure l'autista fa il bigliettaio. Sul tram, Italia, sì. Sì, sul tram o sull'autobus. Sì. In Italia c'è un sacco di evasione, per cui c'è una mancata di introito, un mancato reddito da parte delle imprese. Chissà perché negli Stati Uniti l'autista fa anche da bigliettario. Chissà se in Italia non si può fare per questioni sindacali, ma c'è sempre questo sospetto. Con la disoccupazione che c'è, con i cassa integrati che sono a casa a fare niente, mettersi a fare il bigliettario sarebbe un discorso indecoroso. Va bene, no, certo, è un problema di costi, però. No, ha ragione Paolo, mi sembra importante questa telefonata, perché è una cosa banale, ogni tanto salta fuori, è giusto. Però è vero, siccome sappiamo che un sacco di gente il biglietto non lo fa, cioè o decidiamo che il servizio pubblico è gratuito, come avviene a Settimo Torinese, e noi ne siamo stati, diciamo, portavoce di questa notizia, perché è una bella notizia. Sì, che comunque bisogna pagarlo poi in un altro modo. Però lo paghi con la tassazione. Oppure se si paga, bisogna che si paghi, e quindi questa soluzione qua è auspicabile. Va bene, adesso 800 24 00 24, più avanti speriamo di arrivare a dare i biglietti della mostra di Munch, il personaggio della settimana. Abbiamo un altro personaggio, anche lui della settimana, se vogliamo. Assolutamente sì. Pif. Qua dice che la mafia ammazzò il maresciallo Attilio Buonincontro. Quella mafia è maga. Secondo me è tutta una questione di film. Filippo, vedi che non la puoi sposare. Sono innamorato perso. È contro le regole di Cosa Nostra. È figlia di genitori divorziati. Io, se lo sotto tuo permette, un'idea ce l'avrei. Ammazziamo il padre. La mafia uccide solo d'estate, il film di Pif, il testimone. Sì. Pif, buongiorno. Buongiorno. È mio. Ti abbiamo tirato giù dal letto. No, che in realtà sono così teso per questa settimana che mi sveglio alle 6 di mattina, che per molti magari sarà normale, soprattutto se si ha figli, però io ancora sto schivando il pericolo. Il pericolo e il problema. Ma anche la domenica ti svegli alle 6 del mattino? Ah sì, no, però più si avvicina a questa settimana che ho una serie di avvenimenti che già la metà mi basterebbe. Non sei abituato a questo stress, perché un film di cui si sta parlando molto, sbaglio o verrà presentato in anteprima, o è già stato presentato al Festival di Torino? No, è presentato domani, ci sarà la prima ed è in concorso, quindi ho scoperto tra l'altro che il cinema ha tipo 600 posti, e quindi questa cosa mi tenta. Come? Questa cosa? No, che ci sono quel cinema dove era proiettato. Sì, a 600 posti. Bello. Hai paura che non vengano riempiti? No, in realtà no, perché sono tutti venduti. Ma sì, ma il festival di sicuro. Però sai com'è, è un film che da un anno che me lo rivedo. Ora il fatto che vedi tutti i difetti diventi pubblico. È la prima proiezione pubblica domani? Sì. Ah, però vabbè, allora capiamo l'emozione. Esatto. Tra l'altro abbiamo qua in studio Gabardini, che a Milano fate il film Milano Festival. Film Festival, quindi insomma vabbè, un'occasione, ma voi fate dei film diversi, se no, potete portare anche Piff. Ma certo, ma volentierissimo. Piff, invece è andato a Torino. È andato a Torino adesso, noi siamo a settembre prossimo con diciamo. Virzì, c'hanno Virzì il direttore, cioè, bel festival quello di Torino. Sì, anche quello ci di Milano, bel festival, in Italia di film, ce ne sono troppi ragazzi, dovete fare qualcosa, perché qua senti, ma parlaci un po', insomma abbiamo visto già interviste sui media, i grandi media nazionali ti hanno intervistato tutti, perché è curiosa questa cosa, fare un film dove si ride, e in effetti si ride, parlando della mafia, forse sei il primo, mi viene da dire, c'è stato Benigni, che Johnny Stecchino, che aveva ironizzato su questo, però insomma è un tabù quello di ridere della mafia. Sì, io in realtà abbiamo preso cose, cioè, tutte le cose che raccontiamo sono vere, e quindi non ho quella comicità di Benigni, non mi azzardo neanche, però in realtà abbiamo, come dire, cercato di cogliere il lato comico della mafia, che poi vedendo il film lo vedete, ci sono alcune scene dove ci sono soltanto i mafiosi e sono molto divertenti, e gli autori in realtà non siamo noi ma gli stessi mafiosi, perché sono storie raccontate dai pentiti, sì. Quindi la mafia piglia della SIAE? Ma in teoria dovrei dare della SIAE a tutti i miei compagni. Beh, mi sembra buono. Adesso speriamo che siano iscritti, perché la SIAE sono molto ligi, come ben sai. Ma comunque secondo me loro un modo per convincerli lo potrebbero trovare. Anche secondo me. Perché però hai voluto fare questa operazione? Che tra l'altro c'è anche la cosa buffa del titolo, che è lo stesso titolo di un libro di Alfano, che però tu avevi pensato prima, e questo onestamente va detto. Sì, l'ho pensato prima, poi è uscito il titolo di Alfano, il libro, che in realtà c'ha una parola in meno, il solo, la mafia uccide solo d'estate. Lui dice la mafia uccide d'estate. Per un po' abbiamo pensato di cambiarlo, però io ormai dopo un anno e mezzo non riuscivo a cambiarlo. Anche perché insomma uno dice, ci ho pensato un sacco a fare questo film, poi arriva uno che un libro è Tata Alfano, un libro sulla ma mafia, poi è perfetto, capisce? Perché un sacco di spettatori penseranno che film è tratto dal libro di Alfano e sarebbe incredibile, e verranno a vederlo solo per quello. Esatto. Quindi avrai pubblico in più. Piff solo per ha tratto un film. Dobbiamo capire quanti voti porta prende Alfano. Certo, dobbiamo aspettare le europee. Per un momento lui ha scritto questo libro quando poveraccio pensava di essere candidato premier. Quindi sei scontento della scissione, diciamo, vorresti... Eh sì, perché gli ha tirato giù un po' di... Sì, hai ragione, avrebbero portato più pubblico. Senti, però torniamo al film, perché hai voluto fare questo film in questo modo, Piff? Ma in realtà io nelle puntate del testimone, proprio come faccio in TV, ho sempre affrontato l'argomento mafia in questo modo, che è il modo più spontaneo, cioè non è che l'ho deciso a tavolino, mi viene spontaneo raccontarlo così. E quindi quando mi è capitato di fare questo film, tra l'altro io facevo quelle puntate pensando al film, non mi sono mai chiesto qualcuno si arrabbierà o meno, perché credo che questo film si ride, si piange, però non senza, cioè, la risata non offende la tragedia, almeno questa è l'intenzione. E questo è l'importante, trovare questo equilibrio non facile, sì, ma che sta nella testa delle persone alla fine, no? Cioè, sì. No, io su questo sono abbastanza certo, perché tra l'altro ho fatto vedere, io nel film racconto di Chinnici, il giudice Rocco Chinnici, sì, di Maurizio Giuliano, il poliziotto ucciso fino agli anni 70 dalla chiesa, e l'ho fatto vedere ai parenti e nessuno si è offeso, anzi, quindi questa cosa mi rende ancora più sicuro. Certo, ma dei pezzi delle puntate del testimone sono dentro nel film, o il film è tutto, diciamo, girato ex novo? No, il film è un film vero, tranne l'inizio, che è stile testimone, e probabilmente qualcuno si arrabbierà perché dirà mi sta facendo pagare 7,50 euro per farmi una cosa che ho fatto vedere in televisione. Certo. Tanto complimenti per la trasmissione, che è stupenda. Il film io non l'ho ancora visto, ma la trasmissione del testimone è veramente un piccolo capolavoro. Quello che conta, perché è anche il motivo per cui di film ce ne sono tanti, a parte la curiosità di un film sulla mafia. Esatto. Così, però poi la mia ovviamente da un lato è invidia, e dall'altro è che io vorrei lavorare con te, Piff. Sharif, quindi sono, è per quello in realtà che lo dico. Guarda, se finisce lo stage qua a Radio 24, Gabardini te lo mandiamo. Sto andando malissimo qui, quindi presto sono per strada. Vabbè, bocca al lupo per la prima, domani. Domani, sì. Mi raccomando, resisti a questa tensione. Noi abbiamo cercato di scherzarci un po', spero che sia servito così a farti... Ma lui scherza sulla mafia, noi non possiamo scherzare sul fatto che si è svegliato alle 6, ma spero bene di che possiamo farlo. Lo senti che è tutto teso verso lo scopo. Grazie Piff. Vabbè, grazie a voi. Grazie buona mille domenica. Piff, buona domenica. Quindi è peggio svegliarsi alle 6 della mafia, diciamo, e questo è un po' il sunto di per questo. Per Piff sì. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci con Donatella che ci chiama dalla provincia di Lodi. Buongiorno Donatella. Ciao, buongiorno. Ciao, allora volevi intervenire sulla trasmissione, rispondere al personaggio? Rispondere al personaggio. Sì. Dici. Se la penna è un plettro, potrebbe essere Luciano Ligabue. Ma hai vinto! Hai vinto! La penna però devo essere pletto. Sincera, non sono stata io quella che ha avuto l'idea, è stato mio marito. Vabbè. Complimenti al marito. Che è Ligabue? No. Non so se è sposato, Ligabue, sì. Beh, Donatella, complimenti a te e al marito. La penna era il plettro. Abbiamo detto anche che Emiliano all'ultimo, però insomma, parla al mondo perché. Cioè, lui l'aveva indovinata molto prima. Perché la parola mondo. Perché tuo marito suona la chitarra, forse. Sì, un po' io, sarà, lui, un po' sì. Sarà un fan di Ligabue, il suo album si chiama Mondo Visione, mondo, quindi la parola mondo. Visione. E poi ci era esatto. Piaciuto perché aveva fatto anche questa frase, queste cose che sulla politica, aveva detto sono di sinistra ma non voterò per le primarie del PD, sono uno dei delusi del Partito Democratico. Volevamo però, darvi come indizio, è deluso dal Partito Democratico, solo che purtroppo erano 60 milioni diciamo, di persone dopo, rischiava di esserci. Va bene, grazie Donatella, okay. Vince due biglietti, lei e il marito, per la mostra di Munch a Palazzo Ducale a Genova. Molto volentieri, grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao. Buona domenica. Paolo da Genova, a questo punto non c'è tempo per rilasciare altri personaggi. No, no, certo che non c'è il tempo. Quindi per oggi è andata. Paolo, su cosa volevi intervenire? Ecco, buongiorno, mi sente? Sì. Sì. Ecco, niente, io mi ricollegavo al discorso che faceva quel signore che lavora nell'azienda di proprietà tedesca. Sì, sui trasporti. Trasporti. Sì. Io sono assolutamente d'accordo con quel signore e il punto focale che lui dava e diceva no, il problema è un altro, secondo me il problema è quello, e quando si fanno le specifiche delle gare l'arbitro stabilisce le regole ed è anche il giocatore. Lei prima ha detto il punto non è quello, invece ribadisco, sì, è quello. Il punto è quello. Guardi, senta, sa qual è il problema? È che questa cosa è inevitabile, perché perché è inevitabile? Sì. Ascolti, io sono ingegnere, ordini per ingegneri, sì, nazionali, fate fare le gare agli ingegneri e se fanno qualcosa di scorretto cancellateli dall'albo, vi dica lei se è sbagliato. Paolo, guardi, grazie intanto per aver chiamato. Adesso io non sono in grado di entrare in merito di questa cosa, però il regolatore deve essere un regolatore pubblico. Se poi il pubblico partecipa alle gare, ci deve essere la serietà dell'ente regolatore, le authority dovrebbero essere così serie da bacchettare pubblico e privato indistintamente. Il problema è che le authority le nominano i partiti e quindi lì si crea il cortocircuito, ma non è nel fatto che è pubblico, ma è nel fatto che è nominato per via partitica e quindi non sono serie le authority. Questo è il mio punto di vista, però adesso è il momento di parlare di... No, forse no, perché dovevamo parlare di una cosa, ma... La pillola. Non c'è la pillola? Dovevamo andare, lo diciamo, a Matera, anche se poi il sindaco per qualche motivo non ci risponde, perché Matera è entrata nella shortlist delle... Ce l'abbiamo l'inno di Matera? Intanto no, non l'abbiamo, non ce l'abbiamo, peccato, perché era bello. Matera è entrata nella shortlist delle capitali, certo, candidate italiane, capitali europee della cultura 2019. Noi stiamo seguendo questo evento da prima che uscisse la shortlist, abbiamo iniziato anche con alcune città che non esistono più, credo. Esatto. Abbiamo sentito l'altra volta sul Crinale, perché era uscito il giorno prima Siena, e volevamo sentire Matera, ma il sindaco non risponde. Vabbè, non importa, lo sentiamo la prossima volta, tanto noi abbiamo tempo sabato e domenica. Allora, adesso potremmo chiudere con un'ascoltatrice, Mary, che ci chiama dalla provincia di Pordenone. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ciao Mary, buongiorno. È un piacere sentirvi, specialmente la domenica mattina. Grazie mille. mi associo a quella signora che diceva sì. avremmo piacere di un radiogiornale, un telegiornale di notizie positive, perché ce ne sono in Italia e dovreste fare in modo che vengano portate a conoscenza. Noi okay? ne abbiamo parlato oggi, lo ricordo agli ascoltatori che magari non si hanno sentito fin dall'inizio, perché c'è una petizione promossa tra le altre dai Comuni Virtuosi e da Slow Food per la RAI affinché parli delle buone notizie. Noi ci siamo accodati perché ci piaceva. Assolutamente. Quindi Mary faceva riferimento a questo, voleva dire anche qualcos'altro, Mary? Sì, sì, volevo dirle a proposito dei trasporti urbani, sì. Del caos a Roma, che io ho potuto frequentare, dove pochi pagano il biglietto, chiudiamo l'argomento, io direi perché non ci andiamo ad informare dove le cose funzionano? Due punti, Bolzano in Italia c'è una rete di servizi, è più piccola come città, ma c'è una rete di servizi ed un sistema di pagamento che effettivamente secondo me è corretto, premia chi usa il mezzo pubblico e non presta il fianco ai soliti portoghesi. Grazie Mary, noi dobbiamo fermarci qua. Grazie mille. Non possiamo commentare la telefonata perché dobbiamo chiudere. Io ringrazio Andrea Piana che ha scritto insieme a noi il programma, così come Giorgio De Luca che sì. fa anche l'assistenza. Ringrazio anch'io moltissimo. Quindi è responsabile di tutti i social, per esempio. Peter Bescapè in regia anche oggi, ce l'avevamo anche credo domenica scorsa o due domeniche fa. Caro, noi ci sentiamo sabato prossimo. Assolutamente. Alessio Maurizio e Carlo Gabardini, un io ringrazio domenica, tutti, buona domenica e buon ascolto a chi ci ascolta in podcast. Sì, la mia ricetta per alzare gli stipendi e le pensioni più basse e quindi dare un aiuto alle persone che hanno più bisogno è quella di diminuire gli stipendi nel pubblico impiego. Pubblico impiego soprattutto nei dirigenti che hanno stipendi sopra i 5, 7, 20, 30 mila euro il mese. Quindi una tassazione che va da 5.000 a 10.000 euro del 10% di taglio dello stipendio, da 10.000 a 20.000 e così via, fino a raggiungere un 50% su stipendi che sono sopra i 40.000 euro al mese. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore.